Al telefono con Manfredi dei 90. Ciao, intanto e grazie mille di essere qui con noi ai microfoni di Radio Città Fucico. Ciao, grazie a voi per l'invito, siete stati molto, molto carini, grazie. È un piacere. Abbiamo ascoltato un po' le 7 tracce del vostro album, ma prima di tutto volevo chiederti chi sono i 90, come è nata la vostra storia, come la portate avanti anche? Questo progetto 90 in realtà è partito molti anni fa, una decina di anni fa, ed era sostanzialmente un mio progetto personale, realizzato nel modo più, se vogliamo, stereotipato possibile, ovvero una chitarra collegata a un computer, e una cameretta chiusa e un po' di, diciamo, di sospironi vari ed eventuali. Poi in realtà poco a poco si è un po' questo progetto, che era appunto un progetto ultra casalingo, registrato proprio nella maniera più basilare e autonoma possibile, si è a poco a poco allargato ed è anche cambiato proprio la sua, come dire, la sua stessa ragione d'essere, perché si è trasformato in una sorta di collettivo. E a me piace parlare dei 90 come di un collettivo, perché tante persone nel corso degli anni hanno contribuito a vario titolo, ma non soltanto come musicisti, anche come grafici, eccetera, eccetera. Insomma, tutti coloro e tutte coloro che hanno contribuito in qualche modo a dargli una mano, per quanto mi riguarda, fanno parte di questo collettivo che si chiama appunto 90. Adesso c'è una band che, diciamo, va avanti già da un annetto, è composta da 4 persone. Siamo io, c'è Agostino, che è il batterista, con cui abbiamo avuto una lunga storia di varie band in passato, poi c'è il tastierista, che è Giuseppe, e infine il bassista, nonché produttore, nonché factotum, nonché, insomma, Mr. Wolf, che risolve i problemi, che è Francesco, che all'occorrenza è anche cantante. Poi nel disco ha suonato anche Antonia, il basso, che è una cara amica, e insomma continuerà anche lei a far parte di questo collettivo, e poi ci sono i tanti ospiti e le tante ospiti che ci hanno aiutato, insomma, a portare avanti e a costruire un disco che ha avuto un'origine molto travagliata e molto lunga, che è iniziata durante il lockdown, però magari, insomma, avremo modo di chiacchierare. Beh, lo scopriremo. Poi prima abbiamo già ascoltato un brano tratto dal vostro ultimo album, che si chiama Punk for Introverts, che è il vostro quarto album. Quindi c'è stato crescendo, Best Selling Dreams, Hello We Are Not Enemies, e il 29 settembre è uscito Punk for Introverts. Come è cambiata, a fronte appunto anche dei cambi di formazione, di progettualità, come è cambiata anche la musica? È cambiata, penso, radicalmente, perché appunto i primi erano tutti canzoni appunto super casalinghe, quindi con un suono molto secco, anche magari non perfettissimo, per usare un eufemismo. Però chiaramente c'era molta, molta passione, molto, molto sentimento, concedimi questo termine un po' magari abusato. E adesso invece c'è proprio un suono decisamente più vasto, molto più sfaccettato, molto più ricco, ed è un suono che non sarei mai riuscito a ottenere da solo. Poi a me piacciono sempre molto i dischi che in qualche modo si pongono all'ascolto in maniera empatica, nel senso che devono in qualche modo mettersi alla pari con chi ascolta, ed è il motivo per cui questi brani, nello specifico il disco si chiama Punk for Introverts, è un modo per cercare di raccontare uno stato d'animo che è l'introversione, chiaramente in maniera molto, introversione in senso molto vasto, ampio e variegato. Ecco, si chiama Punk for Introverts, quindi punk per introversi, però non è propriamente punk, anzi è lontano, possiamo dire, da quello che è il punk che conosciamo, è altro. Perché punk? Perché avete scelto questo nome? Perché il punk per come nasce, per come si sviluppa, è appunto una musica che non chiede moltissimo a chi lo esegue. Quello che chiede è sostanzialmente un attimo di verità, quindi è un tipo di musica che è molto onesto, diretto e sincero, e non ha bisogno di, appunto, di moltissimo, se non appunto una certa veemenza emotiva. E qui si ritorna un po' al discorso di prima. Siccome il genere che facciamo si chiama shoegaze ed è un tipo di musica molto particolare, perché a me piace descriverlo come appunto punk per gente introversa, perché alla fine è un tipo di musica che può essere anche molto assordante, però è anche molto introverso e malinconico, e quindi assordare con la malinconia mi sembra un concetto bellissimo, ed è quello che cerchiamo di fare con queste canzoni. Quindi, diciamo, ci sembrava un buon riassunto di quello che è questo album, che insomma è anche una certa di, diciamo, ci piace anche definirlo una malinconia ballabile. Abbiamo provato a ballare queste canzoni e a volte siamo scarsissimi col ballo, però devo dire che magari qualcuno più bravo di noi troverà degli spunti interessanti. Allora, per entrare un po' in questa attitudine punk per introversi, ti chiederei di presentarci tu stesso una canzone tratta dall'album da far ascoltare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Sì, guarda, ti direi Magic Youth, che è stato il secondo singolo la seconda canzone estratta da Punk for Introvert, che in realtà appunto questo Magic Youth è uscito ad aprile, quindi qualche mese fa, ma è una canzone che appunto riassume secondo me molto bene un po' tutto quanto, perché il racconto, allora, intanto questa canzone è stata realizzata assieme a un nostro amico che si chiama The Sensitive Club, è Ben Moore, musicista davvero molto molto bravo, che vi suggerisco, e insomma con questa canzone abbiamo cercato di raccontare quello che è forse il mio argomento preferito, che è la giovinezza e l'adolescenza, quindi una gioventù magica, che è quella che non si fa tanti problemi sul domani, ma che si preoccupa essenzialmente di tutto ciò che è il qui e ora. Insomma, è una canzone abbastanza nostalgica, ma una nostalgia felice, di quella che almeno a me fa stare bene, e spero che faccia stare bene anche a chi lo ascolta. Siamo sempre al telefono con Manfredi dei 90, stiamo parlando dell'album Punk for Introverts, uscito il 29 settembre. E dicevi che ci sono, allora, 7 tracce ci sono nell'album e ci sono vari featuring. Vuoi raccontarci un po' che tipo di collaborazioni sono e come sono nate anche? Sì, allora noi abbiamo iniziato a comporre le canzoni di Punk for Introverts appunto durante il primo lockdown. La cosa sarà che quello era un periodo in cui, come credo ci ricordiamo tutti, era una vita molto chiusa, evidentemente, quindi questo credo che abbia un po' influito e influenzato le sonorità di queste canzoni all'epoca. Erano, se ti facessi ascoltare i demo che avevamo preparato, erano canzoni molto cupe, molto claustrofobiche, spesso molto rumorose, non è stato voluto, ma probabilmente sarà stato un po' un'influenza di quel periodo lì. Questo però non, in realtà col tempo ci siamo resi conto che era necessario cercare un po' di allargare i suoni, renderli un po' più armonici, armoniosi, e che in qualche modo ci consentissero di alleggerire un po' quell'atmosfera così, così cupa che inizialmente si respirava. In questo sono stati di grandissimo aiuto le persone che hanno lavorato con noi a questi brani. Per esempio Forever ha la voce di Gioia Podestà, che è una cantautrice bravissima, ha cantato in una band dream pop di Verona che si chiamavano You Nothing, adesso vive in Belgio e canta con un'altra band che si chiamano Maquillage. Grazie a lei in qualche modo la canzone ha trovato un altro equilibrio, quindi si è una certa oscurità che si percepisce credo ancora nella parte della strofa, e come dire, viene temperata da un ritornello che invece ha un altro tipo di sonorità, e c'è proprio un dislivello armonico che abbiamo cercato di rendere il più marcato possibile, e che si apre parecchio. Ecco, lei con questa voce che io definisco ultraterrena perché è davvero bravissima, ha contribuito a rendere la canzone particolarmente orecchiabile e particolarmente visiva, cioè dà delle sensazioni molto visive, molto concrete nel suo modo di cantare. e questo ha aiutato tantissimo a dare un certo, secondo me, un certo, una certa sfumatura alla canzone. E Magic Youth, altra collaborazione con appunto The Sensitive Club, ne abbiamo già parlato, Ben Moro, colui che canta, insomma, ci ha aiutati a trasformare questo brano in una sorta di corsa a perdifiato, quando ci si ritrova davvero senza fiato ma felici, e lui in questo ci ha aiutato moltissimo, perché poi anche lui ha una voce particolarmente densa e importante. Poi abbiamo Survive the Sea, che è cantata da Francesca Saracino, una ragazza nata negli Stati Uniti, vive in Italia, canta in una band indie rock, rock diciamo psichedelico molto particolare, sono davvero bravi, si chiamano Never Know Yo-Yo, stanno a Milano. Lei, ecco, non mi sbilancio troppo sul testo, perché è un testo molto, lei mi ha raccontato che è un testo molto personale, riguarda una sua vicenda personale, invito tutti a leggere e ad ascoltare eventualmente. Ecco, lei ha una vocalità molto particolare e quindi siccome ha una personalità che è evidente nel suo modo di cantare, abbiamo cercato di sfruttarla con una canzone che vive anche in questo caso di sentimenti contrastanti, quindi c'è una parte molto d'impatto, molto rock, forse la canzone più rock nel senso tradizionale del termine che abbiamo nel disco, con un'altra parte che invece è sospesa, si basa esclusivamente su sintetizzatori, e lei è, diciamo, ha un tipo di fraseggio quasi Fleetwood Mac, molto, come dire, molto leggera, salvo poi appunto andare a farsi sentire come nella parte finale. Infine c'è l'ultimo featuring, è quello di Volta, che è un brano molto insolito, già a partire dal tipo di arrangiamento, perché è un tempo, diciamo, in gergo si dice in 5/4, le canzoni solitamente sono in 4/4, questo invece gioca su 5/4, quindi ha un tipo di giro molto insolito, quasi sgambettante, c'è quasi uno sgambetto. Abbiamo collaborato con gli Etietta, che è un duo italo-canadese misteriosissimo, che fanno musica anche loro shoegaze, ma molto futuribile, futurista, non è il classico gruppo shoegaze, e loro, grazie a loro abbiamo appunto, questo è uno dei brani che inizialmente era praticamente una roba super cacofonica, quasi inascoltabile, grazie a loro, al loro contributo siamo riusciti ad alleggerirlo e a trasformarlo in qualcosa di più rarefatto, e devo dire che il risultato ci piace davvero tanto, perché penso che sia è un tipo di suono che personalmente ho cercato per tanti anni, non ero mai riuscito ad agguantarlo, e grazie a loro, insomma, ci siamo riusciti. Direi che hai fatto una bellissima presentazione di tutti i pezzi, anche di tutti i featuring, quindi si vede che avete lavorato molto bene insieme. Tra l'altro, in una citazione parlando di Volta, di questo brano, sì, voi dite siamo contro la perfezione. Esatto. In che senso? Devo dire che nel mondo della musica, allora, noi ci chiamiamo 90 perché diciamo inizialmente era un po' un omaggio alla musica degli anni 90, e tuttora lo è, infatti. Però la cosa che a me ha sempre affascinato di quella scena musicale alternativa, di rock alternativo, era un certo grado di imperfezione, perché secondo me è più importante appunto che durante una canzone si senta un attimo di qualcosa che sia appunto un istante di verità, quindi anche se dovesse esserci anche un errore o comunque un qualcosa di impreciso, quello comunque è il racconto di un momento, e abbiamo cercato di mantenerlo integro in tutte le canzoni, quindi se magari quella si sente qualcosa che non è del tutto precisissima, noi abbiamo voluto lasciarla, perché è qualcosa che ci rappresenta. Io non sono un grande chitarrista, cioè io cerco di avere un determinato suono, ma non posso definirmi un chitarrista che ha una grande tecnica, perché si cerca appunto di provare a cercare un suono che sia dritto, che sia possibilmente bello e che sia anche sporco il giusto, per non essere troppo perfettino. Ecco, ultimamente quello che noto nella musica di oggi, c'è molta perfezione e molta post-produzione, molta ricerca dell'effetto speciale o di qualcosa che c'è, cioè, insomma, una ricerca di perfezione che secondo me non fa bene alla musica. Torna anche al concetto di punk, quindi come vedi tutto poi tutto torna. Tutto torna, esatto. Perfetto, allora grazie mille Manfredi, ricordiamo che stiamo parlando con i 90 a proposito dell'album Punk for Introverts. Ti chiederei, per salutarci, per salutare anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, una canzone tratta dal vostro album da far ascoltare per salutarci appunto. Beh, direi che possiamo salutarci appunto con Volta, che è un pezzo che secondo me si presta bene per i saluti finali. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto e a presto. Viva il lupo, grazie mille.